Tra le righe, spunti, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Nel 1992 Jeanette Winterson si è affermata in Italia con il romanzo Scritto sul corpo, ma l'autrice inglese aveva già ricevuto il prestigioso premio Whitbread First Novel Award con Non ci sono solo le arance e il premio dell'American Academy of Arts and Letters con Il sesso delle ciliegie. A questi titoli se ne sono aggiunti nel corso degli anni altri, tra quali Arte e menzogne, Simmetria amorose, Power Book, Gli dèi di pietra. Da poco è uscito in Italia l'ultimo romanzo di Jeanette Winterson, Perché essere felice quando puoi essere normale? Un libro dove trovano casa tutti quegli elementi che la scrittrice aveva seminato nei suoi precedenti lavori: il senso di perdita, l'amore con la sua vastità di sensazioni, spesso altalenanti o distruttive. Un romanzo, una storia, quella di Jeanette Winterson e del suo amore per la letteratura, per quei libri che, in una casa dove esistevano solo la Bibbia e i suoi commentari, lei aveva cominciato a collezionare sotto il materasso del suo letto, fino a quando la madre adottiva non se ne accorse e li lanciò dalla finestra. La signora Winterson ne fece un falò, ma ormai la vita di Jeanette aveva preso un sentiero tutto suo, un percorso dove finalmente poteva ritrovarsi, attingendo dai libri anche la forza di andare alle origini di se stessa. Jeanette Winterson disegna parole dopo parole gran parte della sua vita fino al ritrovamento della madre naturale. Segna con il lucido amore per la letteratura, per la poesia, il proprio percorso personale, soprattutto dove esso si fa più tortuoso, più dolente, riuscendo a mettere insieme ogni tassello che possa comporre un'immagine sempre meno sfocata di sé, che possa rispondere a quella domanda che dà il titolo al libro e che la madre le fece prima di vederla andare via da casa e dal senso di oppressione che viveva tra quelle quattro mura. La parola scritta, dunque, che libera, che accoglie senza riserve, che consola il lettore, perché come dice Jeanette Winterson, un libro non è un luogo dove nascondersi, ma dove ritrovarsi. Alla prossima con Tra le righe. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.